in primo piano. Buona giornata da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Come sapete, dopo la pausa tradizionale del 16 agosto, in cui non ci sono quotidiani in edicola, uno dei pochi giorni all'anno in cui non trovate quotidiani in edicola, oggi ritroviamo invece la collezione completa. Allora vediamo un po' quali sono i temi in maggiore evidenza. Naturalmente, come già avete potuto ascoltare nel corso del nostro giornale radio, le questioni legate alla lotta al terrorismo e ai profughi tengono banco. Poi per fortuna abbiamo anche questa finestra delle Olimpiadi, che tra l'altro ci sta regalando delle soddisfazioni proprio come rappresentativa italiana. Vi do una, lo annuncio subito, disordinata lettura dei temi delle prime pagine, nel senso che pur avendo una certa ricorrenza di temi, vedremo come le varie testate vanno a interpretare con notevoli differenze anche le stesse indicazioni della cronaca. Allora, la stampa, ma cominciamo dalla stampa in modo assolutamente anarchico, appunto, che si occupa soprattutto della questione della lotta al terrorismo, della lotta all'ISIS nel territorio libico e del possibile rischio di infiltrati. Infatti il suo titolo principale è proprio dedicato al piano anti-ISIS, sommergibili e truppe speciali. La notizia la trovate anche sul Secolo XIX, naturalmente, come sapete i due giornali sono uniti, sono gemellati, quindi la descrizione di questo piano che il governo sta preparando per prevenire possibili infiltrazioni di terroristi in fuga dalla Libia, c'è una nuova unità speciale, così riferiscono Stampa e Secolo XIX, squadre d'assalto imbarcate sulle navi e sommergibili impegnati nella caccia a scafisti e jihadisti. E poi naturalmente l'annuncio, l'avete sentito anche dalla collega Adriana Fracchia nel corso del GR, l'ISIS che ha invitato i lupi solitari ad agire, ad attaccare in Europa e negli Stati Uniti. Cambiamo argomento con Repubblica, che invece dedica sì un titolo in prima pagina per le questioni della lotta all'ISIS, ma in realtà dando evidenza alla svolta che sta avvenendo in ambito siriano, cioè nel contrasto sul territorio siriano. Svolta sulla Siria è uno dei titoli della prima pagina di Repubblica. Raid russi dall'Iran. E poi Repubblica decide di dare le sue prime pagine, le sue primissime pagine alle vicende oramai sempre più ricorrenti di attacchi, di bombe, di bombardamenti che colpiscono purtroppo gli ospedali. È successo ancora nello Yemen, 11 morti in un attacco, riferisce Anna Lombardi su Repubblica, e la rabbia di Medicine Sans Frontières, di Medici Senza Frontiere, che dice ora basta. Gli aerei sauditi hanno distrutto una clinica, era già successo 3 volte nello Yemen, però episodi simili, ce li ricordiamo tutti, sono avvenuti anche in Siria e in Afghanistan. Coinvolgimento naturalmente degli ospedali è una delle cose più tragiche, più dolorose che vediamo, a cui assistiamo proprio in queste aree di conflitto, come ad esempio avviene in Siria. Ma non è questo il titolo principale di Repubblica, che infatti decide di dare particolare evidenza alla questione del rinnovo dei contratti pubblici, con questa distanza per ora molto ampia di richieste tra i sindacati e quello che sembra essere nelle disponibilità del governo. 7 miliardi per i contratti pubblici, i sindacati incalzano il governo. E poi un richiamo anche per le cosiddette politiche attive per il lavoro. Ma di tutto questo ci occupiamo tra poco, perché ora è il momento del traffico. E allora ancora una buona giornata da Mauro Meazza, bentornati alla nostra rassegna stampa. Vi dicevo che i titoli dei giornali sono un po' sparsi, un po' in ordine sparso sulle varie vicende di cronaca che stanno interessando non solo l'Italia ma anche il nostro paese. Privilegiamo diciamo, vengono privilegiati sostanzialmente le questioni relative alla lotta al terrorismo, con i due teatri importanti, la Libia e la Siria, anche per vicende politiche, appunto questa disponibilità dell'Iran a concedere le basi per i raid russi in Siria, e le questioni invece delle possibili infiltrazioni di terroristi in fuga dalla Libia. Come sapete, l'ISIS sta perdendo territori, sta perdendo posizioni anche in Libia. Questo è uno dei temi, ma non è l'unico. Ci siamo fermati proprio prima delle informazioni sul traffico, sui 7 miliardi che vengono richiesti dai sindacati per il rinnovo dei contratti pubblici. E poi, nello stesso titolo che abbiamo preso come titolo principale da Repubblica, le aspettative, le iniziative che il governo sta preparando per la cosiddetta fase 2, così dice Repubblica, del Jobs Act, cioè la riforma del lavoro. Allora, qui bisogna ricordare che la riforma, che già è dell'anno scorso, prevede anche una serie di interventi come sostegno a chi perde il lavoro, le cosiddette appunto politiche attive. Di questo riferisce Repubblica, riferisce anche, e lo vedremo più avanti, Il Sole 24 Ore. Poi Repubblica dà molto spazio nella sua prima pagina a una vicenda delle Olimpiadi, che in realtà per noi ha un significato, per noi italiani ha un significato particolare, perché cos'è successo? Che una delle vincitrici di una medaglia, cioè Rachele Bruni, che ha vinto l'argento nei 10 km di nuoto, ha dedicato la sua medaglia alla sua compagna. Quindi naturalmente, arrivando questa dedica particolare, non consueta, diciamo così, nei giochi olimpici, la questione si lega naturalmente alla recentissima approvazione delle nuove norme sulle unioni civili, cioè la cosiddetta legge Cirinnà, così come abbiamo imparato a conoscerla. Una norma che è da pochissimo operante in Italia. Le prime unioni sono state proprio riconosciute in questo mese di agosto, per via del fatto che era necessaria tutta una serie di messa a punto burocratica, e questo coming out molto particolare con questa dedica per la medaglia naturalmente occupa molto spazio anche su alcune prime pagine dei quotidiani. Così è per Repubblica, grande foto centrale, il mio argento contro i pregiudizi, Rachele e Diletta, la coppia dei giochi. Questo il titolo di Repubblica, mentre con il quotidiano nazionale Il Giorno torniamo già dalla prima pagina sulle questioni legate al terrorismo. Ordine ISIS, colpite l'Italia. Appello ai lupi solitari, il nostro paese citato tra quelli dove compiere attentati. E poi a Milano controlli extra sui migranti, Siria, Putin chiama gli USA, c'è una trattativa in corso. Volevo restare solo un istante ancora su questa vicenda della dedica della nostra nuotatrice Rachele Bruni, della sua medaglia alla compagna, perché questo è il titolo principale a tutta pagina dell'Unità di questa mattina. Medaglia d'oro per i diritti, questo si legge sulla prima pagina dell'Unità. Le acque libere di Rachele Bruni, la dedica dell'argento alla sua compagna è una vittoria civile. E poi un virgolettato, la dichiarazione della nuotatrice: vivo la mia vita con naturalezza contro i pregiudizi, dico a tutti di non avere paura. Il titolo che è scelto dall'Unità, appunto dedicato a questa particolare dedica della nuotatrice Rachele Bruni per la sua medaglia d'argento. Veniamo a notizie di tutt'altro genere invece con il Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera sceglie di tornare sulle questioni legate ai profughi più che all'ISIS. Quindi qua ci spostiamo un pochino come orizzonte, perché ospita questa intervista al ministro dell'Interno Alfano. Islam, dice il titolo principale del Corriere della Sera di questa mattina, nuove regole in Italia. Alfano annuncia solo imam formati qui. E poi il burkini, cioè questa particolare forma di costume che consentirebbe appunto di rispettare i dettami del Corano anche in spiaggia, quindi il tema è proprio di stagione, come dire, è stato vietato in Francia, non è vietato in Germania, si discute se introdurre un divieto analogo anche qui. Sul punto il ministro è molto categorico e dice il divieto sarebbe provocatorio. No alle provocazioni, questo già nel richiamo dell'intervista che Dino Martirano fa ad Alfano, al ministro Alfano, no alle provocazioni che potrebbero attirare attentati. Quindi l'idea di vietare il burkini viene letta dal ministro Alfano come una possibile provocazione, un argomento quasi a favore di chi poi si volle far prendere dal fanatismo. Un'altra notizia sul Corriere della Sera in prima pagina: l'Europa che decide una stretta su Skype e WhatsApp, deciderà, verrebbe da correggere, nel senso che integriamo il piano, si prepara per settembre. Il problema è che le compagnie telefoniche, diciamo così, più tradizionali, quelle che non consentono le chiamate gratuite come Skype o WhatsApp, lamentano una distorsione della concorrenza. Quindi l'Europa conta di intervenire da settembre prevedendo nuove regole. Ma restiamo su questa intervista ad Alfano, perché ci sono diversi spunti interessanti. L'intervista è a pagina 3 del Corriere della Sera di questa mattina ed il titolo nella pagina 3 riprende appunto quello che vi dicevo sul burkini. Dico no alle provocazioni che potrebbero attirare attentati, questa è la dichiarazione di Alfano. Il ministro dell'interno dice anche: non mi sembra poi che il modello francese purtroppo abbia funzionato per il meglio. Gli chiede Dino Martirano come intende muoversi. Dice appunto Alfano, lancia subito la sua proposta sulla formazione degli imam. Basta con le moschee fai da te che spuntano nei garage, la proposta è di imam formati in Italia. Ministro, chiede Martirano, lei ha firmato di suo pugno 109 espulsioni di altrettanti stranieri di religione islamica e 9 sono imam per motivi di sicurezza nazionale. Sono sufficienti per arginare il rischio di radicalizzazione? La risposta di Alfano è la seguente: noi stiamo lavorando per agevolare il consolidamento di un modello di imam che abbia una formazione in Italia per poter operare nel nostro paese. Inoltre chiediamo alle comunità islamiche un contributo per individuare i soggetti che si radicalizzano, anche per intensificare i controlli sui finanziamenti in arrivo dall'estero. È necessaria un'emersione di tutti i luoghi di culto, con pieno rispetto delle regole, per evitare le mini moschee nei garage. In Europa, chiede Martirano, ci sono due modelli di approccio ai diritti. La Francia, che vieta il burka fin dal 2010 con il placet della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e la Germania, dove invece il ministro dell'Interno, Thomas de Maizière, è contrario alle limitazioni. L'Italia non ha un divieto per il burka. Come si muove? Sotto il profilo delle espulsioni, dice Alfano, la Germania si sta incamminando verso il modello italiano, che purtroppo negli anni passati non aveva avuto piena applicazione neppure in Italia. Dal 2014 ho rilanciato quel modello, certo che, anche se non da solo, lo strumento delle espulsioni per motivi di sicurezza nazionale produce una bonifica del territorio nei confronti di persone radicalizzate. È chiaro che, e non mi stanco di ripeterlo, questo ancora lo ripete il ministro Alfano nell'intervista di oggi sul Corriere della Sera, il rischio zero non esiste. Quindi il fatto che il nostro paese sia stato finora fortunatamente risparmiato da attentati come quelli che abbiamo purtroppo visto in territorio francese o a Bruxelles, ecco, no, questo non significa che siamo un paese a rischio zero. Il ministro dell'Interno lo ribadisce praticamente in ogni occasione pubblica, non perde neppure questa uscita sul Corriere della Sera per segnalare che nessun paese europeo può considerarsi a rischio zero. Chiedono poi, Dino Martirano sul Corriere chiede al ministro per il DDL sicurezza, chiederà a Renzi una corsia preferenziale in Parlamento? Risponde Alfano, deve diventare la priorità della ripresa di autunno. Verrebbe qui quasi da integrare, vedendoli i giornali, come vi dirò tra poco, una delle priorità, perché cioè, oltre alle questioni del rinnovo dei contratti degli statali, ci sono pure tutti i temi che stanno agitando la preparazione della manovra per il prossimo anno, e quindi anche il DDL sicurezza, che certo non può essere trascurato, sarà una delle priorità della ripresa d'autunno. Queste sono alcune delle frasi che trovate oggi sul Corriere della Sera in questa intervista al ministro dell'Interno Alfano. Andiamo sul Messaggero, perché con il Messaggero torniamo sulle questioni della lotta al terrorismo nel territorio, della lotta all'ISIS in territorio siriano. Siria, l'Iran offre le basi ai russi. Svolta nella crisi siriana, i bombardieri di Mosca contro il califfato in partenza da aeroporti iraniani. Anche la Cina sostiene Assad, vicina l'intesa con gli USA per liberare Aleppo, ma Washington frena. E poi anche per il Messaggero, con un richiamo, una piccola finestra sotto questo titolo principale, l'appello dell'ISIS ai lupi solitari in Europa: attaccate subito anche in Italia. Veniamo allora, come vi dicevo, ai temi della ripresa d'autunno, mettendo per un attimo tra parentesi le questioni pur molto delicate legate alla lotta all'ISIS e alla lotta al terrorismo. Investimenti pubblici più veloci, arriva una corsia preferenziale, è infatti il titolo che trovate a centro pagina questa mattina sul Messaggero. Questo intervento per velocizzare gli investimenti pubblici, quindi far ripartire le opere sul territorio, è previsto, sarebbe previsto, dovrebbe essere varato con la manovra d'autunno. Spiega il Messaggero già in prima pagina: una corsia preferenziale per rendere gli investimenti pubblici più veloci. L'intesa a livello politico c'è tra il presidente del Consiglio Renzi, il ministro dell'economia Padoan e quello delle infrastrutture del Rio. Obiettivo è quello di rendere subito disponibili risorse in cassa per dare ancora più sprint alle opere considerate prioritarie, e una norma ad hoc è pronta per essere inserita nella nota di aggiornamento del DEF, il documento di programmazione economica e finanziaria. E poi naturalmente, lo ricordo in queste ultimissime righe del richiamo di prima pagina, ci sarà da vedere cosa ne pensa l'Unione Europea sulla flessibilità asse tra Renzi e Hollande, quindi Italia e Francia, per convincere Merkel quindi a una maggiore flessibilità. Abbiamo ancora circa un minuto prima di fermarci qualche istante, così mi fa segno Paolo Corleoni, che questa mattina rende tutto ciò possibile, e lo ringrazio dall'altra parte del vetro. Allora vi do intanto qualche anticipazione da questi temi della manovra, temi dell'autunno, di cui sentiremo molto parlare nelle prossime settimane. La corsia preferenziale, alla quale il Messaggero dedica appunto il suo titolo già in prima pagina, ma poi ci sarà da intervenire ancora per tagliare, per ridurre ulteriormente l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive. C'è la parte del lavoro, rifaremo una riedizione degli sgravi per favorire le assunzioni, e poi c'è il grande capitolo delle pensioni, se ne parla già ormai da mesi, con l'ipotesi dell'anticipo della pensione, APE, così come abbiamo imparato a chiamarlo in sigla, e RITA, cioè la rendita integrativa temporanea anticipata. Questi alcuni dei temi, ma poi incombono i 15 miliardi che servono per evitare che scatti l'aumento dell'IVA. Sono alcuni dei temi che terranno banco per la manovra. Ora ci fermiamo per qualche minuto. E bentornati alla nostra rassegna stampa. Ancora una buona giornata da Mauro Meazza, buona giornata anche a Paolo Corleoni dall'altra parte del vetro, colui che rende tutto questo possibile. Vi ricordo che anche il 17 agosto naturalmente potete inviarci sms, potete scriverci su WhatsApp, il numero è quello solito 349 238 6666. Ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici che già ci hanno contattato per segnalare la loro presenza anche a un orario abbastanza abbastanza anticipato per questo periodo vacanziero. E allora, non per punirli, per carità, per essere già in ascolto, ma tocca restare un momento su questi temi che saranno oggetto della manovra d'autunno, perché questa manovra, appunto, tra i 15 miliardi che servono per scongiurare l'aumento dell'IVA, che appunto è una delle clausole cosiddette di salvaguardia per compensare risparmi mancati o mancato funzionamento di misure appunto di contenimento della spesa. Poi ci sono i 7 miliardi che vengono chiesti dai sindacati per il rinnovo dei contratti degli statali, e poi c'è il grande cantiere delle pensioni, con questo difficile equilibrio appunto tra il favorire un'uscita anticipata rispetto alle regole, ma senza gravare eccessivamente sui conti. E naturalmente c'è l'occupazione da stimolare, i consumi da far ripartire e quant'altro. Quindi, come potete vedere, tutto questo viene riassunto oggi, ad esempio, in pagina 4 e 5 del Messaggero, anche con alcuni grafici che ci ricordano quali sono poi le nostre particolari urgenze, come ad esempio il debito pubblico, che è sempre molto elevato, e poi anche l'andamento del PIL, ohimè, brutto, come abbiamo visto proprio nei giorni scorsi, con questo sostanzialmente questo valore fermo, il che non è certo un buon viatico, un buon momento per cominciare a parlare di manovra. E allora, visto che siamo sui temi economici, apriamo il Sole 24 Ore di questa mattina, il Sole 24 Ore che trovate in edicola. Il nostro titolo principale sulle borse, borse globali in frenata per i timori sui tassi USA. Sì, perché poi ci sono anche naturalmente le questioni di economia internazionale che condizionano ovviamente anche le politiche nazionali e anche la nostra politica economica nazionale. Che succede? Succede che ieri, tra le varie cose di ambito economico che sono successe tra ieri e l'altro ieri, c'è stata un'intervista a Fox Business da parte di William Dudley, che è presidente della Federal Reserve, cioè della Banca Centrale Americana di New York. Il banchiere si è detto convinto che i mercati stanno sottostimando la possibilità di una stretta monetaria, facendo capire che ciò potrebbe avvenire già il prossimo mese. Insomma, possibile che la Fed, la Banca Centrale Americana, rialzi i tassi già a settembre, renda il denaro più caro già a settembre. Questa ipotesi è sempre stata parecchio temuta dalle borse. Infatti ieri le borse, come riferiamo sia in prima pagina che a pagina 3, poi con maggiore dettaglio per un articolo affidato a CEO Condina, appunto le borse hanno reagito male a questa anticipazione, decisamente male Tokyo, ma male anche Milano, che ha chiuso sotto di 1,21. Poi c'è la questione del greggio, di cui ci occupiamo a pagina 2, perché il petrolio invece sembra mostrare segnali di ripresa del suo prezzo. Questo, come sapete, è una notizia positiva, nel senso che sta a indicare anche una prospettiva di maggiore produzione, di maggiori consumi, un'aspettativa quantomeno di maggiore produzione e maggiori consumi. E di questo riferiamo a pagina 2 oggi su Sole 24 Ore. Intesa possibile su un blocco di produzione, corre il greggio, descrive la situazione Sissi Bellomo. Brexit, perché questa scelta per l'uscita dall'Unione Europea, che temo ci terrà compagnia ancora per, non per mesi ma per anni, sta condizionando naturalmente le economie di tutta Europa, e non solo d'Europa, ma soprattutto in questo momento gli effetti sono locali. Brexit spinge l'inflazione inglese, che sale ai massimi da 20 mesi. Questo nella reportage di Nicole degli Innocenti oggi sul Sole 24 Ore. Ma sul Sole 24 Ore di oggi ci sono soprattutto due temi che vi voglio evidenziare. L'uno lo anticipavamo già da qualche altro quotidiano: le indicazioni per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego e le ipotesi per i servizi, per le politiche attive. Tra l'altro, come scrive Claudio Tucci oggi a pagina 6 del Sole 24 Ore, si immagina di lanciare un nuovo numero unico in aiuto dei disoccupati, e poi in autunno di far partire questo assegno di ricollocazione che andrebbe a sostituirsi all'ANASPI, cioè all'assegno per le politiche di integrazione, che viene dato per i primi 4 mesi. Il dettaglio sulle novità in arrivo è riassunto anche in una serie di schede che facilitano appunto la comprensione di questo complesso cantiere delle politiche attive. Il secondo tema di cui vi voglio dare segnalazione, tra le molte cose che trovate oggi sul Sole 24 Ore, è quello relativo alla intervista a Rossella Orlandi. Rossella Orlandi, come sapete, direttore dell'Agenzia delle Entrate, che in una intervista rilasciata a Jean-Marie Delbos e Marco Mobili parla di un primo bilancio della cosiddetta precompilata, la dichiarazione appunto che abbiamo compilato e per la quale abbiamo pagato le imposte nelle settimane scorse. I termini poi per il 7.30, come sapete, sono chiusi, per unico c'è ancora tempo, e soprattutto parla di controlli di lotta all'evasione. In Italia naturalmente parlare di fisco è anche parlare di lotta all'evasione. Orlandi, 220.000 lettere sul 7.30, più dialogo, questo è il titolo dell'intervista che trovate a pagina 7, indagini finanziarie e redditometro, dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate, utilizzate solo se davvero necessari. L'intervista occupa l'intera pagina 3, quindi trovate molti spunti sulla materia fiscale. Io vi do solo qualche accenno. Allora, innanzitutto sui numeri di quanti di noi hanno trasmesso la dichiarazione precompilata direttamente, cioè senza neanche ricorrere all'ausilio di un CAF o di un professionista, sono stati 2 milioni di soggetti, erano stati 1,4 milioni l'anno precedente. Questi sono i numeri che presenta il direttore dell'Agenzia delle Entrate proprio sulla dichiarazione cosiddetta precompilata fai da te, quindi contribuenti che non hanno neanche avuto bisogno o non hanno sentito il bisogno di rivolgersi a un intermediario per la trasmissione. Complessivamente, spiega sempre il direttore, i contribuenti che si sono rivolti a CAF, professionisti, sostituti di imposta che prestano assistenza fiscale, sono pari a 17,9 milioni. Questo dato, dice sempre la Orlandi, è invariato rispetto all'anno scorso, quindi l'incremento di correzioni registrato dai CAF, che se mi ha insegnato dai CAF, è ascrivibile a una diminuzione dei cittadini che hanno trasmesso il modulo tramite professionisti e sostituti. Veniamo alla questione dei controlli, che è sempre particolarmente delicata. Già il titolo appunto annuncia che saranno inviate 220.000 lettere. Quello che si adimira è la cosiddetta compliance, cioè l'adeguamento spontaneo, e quindi queste lettere rappresentano una sorta di primo segnale che il fisco manda ai contribuenti ormai già da diversi anni per invitarli a chiarire alcune discrepanze, alcune difformità tra magari errori nella loro dichiarazione dei redditi o in qualche caso anche delle cose che appunto non girano, non tornano nella dichiarazione stessa. Chiedono Jean-Marie Delbon e Marco Mobili, avete in programma di usare sempre meno redditometro e indagini finanziarie? Per quale motivo? Sono strumenti che non danno affidamento, oppure le tutele per il contribuente vi rendono più conveniente puntare su altro? La risposta è questa: non è nelle intenzioni dell'agenzia depotenziare né il redditometro né le indagini finanziarie, ma trattandosi di strumenti di controllo molto pervasivi e basati su presunzioni di legge, vogliamo utilizzarli solo quando è strettamente necessario. Il redditometro è un valido strumento che consente l'individuazione delle posizioni a maggior rischio di evasione. In particolare, si è dimostrato molto utile per intercettare i contribuenti non titolari di partita IVA che presentano un rilevante scostamento tra l'importo del reddito dichiarato e la capacità di spesa manifestata dell'anno. Insomma, in parole molto povere, coloro che dichiarano redditi molto bassi ma poi hanno disponibilità di beni invece che presupporrebbero un reddito ben maggiore. Veniamo a un altro tema. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate Orlandi parla anche di fattura elettronica, ma parla anche di voluntary disclosure, cioè il programma di riemersione e rientro dei capitali dall'estero, capitali non dichiarati al fisco o proprietà non dichiarate al fisco detenute all'estero. Il controllo delle pratiche di questa voluntary, che si è chiusa lo scorso anno, per la quale, come sapete, si è anche ipotizzata una riapertura, ma di questo naturalmente, essendo materia del governo, il direttore Orlandi non può parlare. Il controllo delle pratiche di voluntary disclosure, dice Rossella Orlandi, è a buon punto. Gli uffici e l'agenzia stanno facendo uno sforzo intensissimo, sono arrivate moltissime pratiche, oltre 129.000, ben più di quelle previste, e si sono concentrate in un breve lasso di tempo. Si pensi che dal gennaio al 30 settembre del 2015 sono arrivate 63.000 pratiche, nei due mesi di proroga, ottobre e novembre, ne sono arrivate 66.000, quindi negli ultimi due mesi più di quelle ricevute nei primi nove. Dagli ultimi dati di monitoraggio, tra pratiche concluse e in corso di lavorazione, siamo al 75%. Insomma, l'agenzia ha già lavorato tre delle istanze, o pratiche, come volete chiamarle, che ha ricevuto. E poi una notizia quasi, come dire, curiosa. Come sapete, il fisco e l'agenzia di entrate anche su Facebook. Siete entrati nel mondo dei social, chiedono quindi del Bo e mobili a Rossella Orlandi. Qual è l'impatto? E ritenete che i social o il web possano diventare in che modo fonti di innesco per la lotta all'evasione? Il direttore risponde: è davvero una bella esperienza, è un esperimento sociologico. Il fisco si interfaccia con i cittadini senza filtri e risponde alle domande della gente. Dice tra l'altro: nessun insulto, ci sono stati 12.000 like in poche settimane. Like, immaginiamo, non per le imposte ma per l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate. Ma ciò che fa più piacere è la risposta degli utenti dei social, che molto spesso è entusiasta. È un'interazione che ci mette in condizione di individuare anche anomalie ed errori. Insomma, siamo i primi ad avere inteso i nuovi media come un'occasione per dare servizi. Credo che possiamo e dobbiamo continuare su questa strada. Vi ho dato così conto di alcune delle dichiarazioni di Rossella Orlandi oggi nella lunga intervista sul Sole 24 Ore. Tra l'altro, come sapete, oggi come ogni mercoledì trovate anche in allegato la guida per l'economia per la famiglia, e poi ci sono, come tutti i giorni in questi giorni di agosto, le pagine del Focus Estate dedicate proprio ai professionisti. Oggi ci occupiamo, in materia di lavoro e previdenza, delle sanzioni che sono ora previste per quanto riguarda previdenza e sicurezza sul lavoro. E ora ci fermiamo per qualche istante perché c'è il traffico. E buona giornata da Mauro Meazza, ultima parte di questa nostra rassegna stampa. Allora, abbiamo parlato, direi, a lungo di fisco, di lotta all'evasione, di tasse, e allora vi segnalo anche dal Fatto Quotidiano, in edicola questa mattina, invece un titolo decisamente più polemico. Ecco la nuova lotta all'evasione: sgominare falsari e vucum pra. Il capo della finanza voluto da Renzi non disturba i veri criminali. Mentre l'Agenzia delle Entrate, così richiama il Fatto Quotidiano, lamenta di non avere mezzi per contrastare le frodi IVA da 40 miliardi l'anno, le fiamme gialle si danno come priorità ambulanti e caporali. La gioia dei furbi, evasione alla finanza di Toschi, ha trovato i colpevoli, sono i vucum pra. Dicono appunto dice l'articolo di Luciano Cerasa: i due pesi massimi nella lotta all'evasione fiscale del governo Renzi non riescono a mettersi d'accordo. Per il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, il male all'origine di tutti i problemi del sistema fiscale italiano è l'IVA non versata ogni anno, che pare non si riesca proprio a recuperare. Per il comandante della Guardia di Finanza, i veri evasori sono invece i vucum pra, contro i quali ha scatenato una vera e propria campagna d'estate. Il messaggio è chiaro, spiega un portavoce delle fiamme gialle al Fatto: l'attività del corpo si concentra, con una lotta senza quartiere, sui venditori e gli ambulanti abusivi, sugli evasori totali, sui truffatori e frodatori di risorse pubbliche, su chi sfrutta i lavoratori con il caporalato e il lavoro nero a danno delle imprese sane e rispettose delle regole. In realtà, appunto, nella dichiarazione non ci sono solo i venditori e gli ambulanti abusivi, ma anche i cosiddetti evasori totali, cioè coloro che sono sconosciuti al fisco, non necessariamente coincidono con i VCumpra, a volte sono anche proprio coloro che si rendono responsabili di questi dirottamenti, di queste evasioni dell'IVA. Questo sul Fatto Quotidiano, ve lo segnalo per continuità anche col tema di cui abbiamo parlato fino a poco fa, appunto, per quanto riguarda l'intervista data da Rossella Orlandi. Ma ora vorrei davvero, in questa ultima parte della nostra, in questi ultimi 10 minuti della nostra rassegna stampa, passare a qualche tema un po' più leggero o un po' più insolito che trovate sui giornali di oggi. Cominciamo magari dalle Olimpiadi, la Gazzetta dello Sport, che oggi mi è molto cara anche perché presenta in prima pagina, annuncia in prima pagina un'intervista al neo allenatore dell'Inter, la prima intervista a De Boer, che è Frank De Boer, nuovo allenatore dell'Inter. Cara Juve, all'Inter non fai paura, questo il titolo, il virgolettato che trovate in prima pagina della Gazzetta dello Sport, ma facendo, come dire, mettendo da parte i miei sentimenti calcistici, invece preferisco parlarvi delle Olimpiadi, perché nelle pagine dedicate alle Olimpiadi la Gazzetta dello Sport ci ricorda che siamo già a quota 23, mai così bene dal 2000, il tiro soprattutto è stata una miniera e l'Italia sogna con 9 carte da medaglia. Tra l'altro, nel beach volley, la Gazzetta non poteva ovviamente saperlo perché la vicenda è arrivata poi successivamente alla stampa del giornale, dopo Nicolai sono certi di giocarsi, così riferisce, almeno la finale per il terzo posto, giocheranno invece la finale per il primo e secondo posto. E poi sempre nelle pagine di primo piano dedicate alle Olimpiadi di Rio, la Gazzetta dello Sport si occupa naturalmente della delusione per Vanessa Ferrari, purtroppo quarta a un soffio dal podio, sarebbe stata probabilmente l'ultima medaglia della sua carriera di ginnasta, è in programma un ritiro, anche se sul punto lei ha detto appunto non so, ma lì forse prevaleva anche la delusione per questa medaglia di bronzo mancata di un soffio. Il tecnico peraltro ha fatto sapere che l'intenzione appunto della ginnasta è quella di ritirarsi. E poi ci sono le pagine dedicate alle ultime più recenti medaglie dell'Italia, ad esempio quella di Elia Viviani, che ha vinto, come sapete, nella specialità del ciclismo su pista denominata Omnium. Viviani, Superman in pista, ha vinto, come sapete, nonostante una caduta nella fase finale che avrebbe potuto compromettere parecchio la sua prova e anche il risultato finale. Questo per quanto riguarda le Olimpiadi. Naturalmente pagine e servizi sulle Olimpiadi sono un po' su tutti i giornali. Vi ricordo, come sempre, anche questa mattina, 349-238-6666 sono i numeri per comunicare, per mandarci gli sms. E adesso vi avevo promesso di cambiare un pochino argomento, e allora lo faccio davvero con un articolo inatteso che ho trovato sul Messaggero e che riguarda le scie chimiche. Adesso io immagino che tutti gli ascoltatori sappiano di cosa sto parlando, ma per chi non lo sapesse faccio un breve riassunto il più obiettivo possibile. Allora, gira sul web, sui social cosiddetti, Facebook ma anche altri, tutta una teoria del complotto che vorrebbe che queste scie che vediamo in cielo, queste strisce bianche che vediamo in cielo dopo il passaggio di un aereo, non siano assolutamente innocue, effetto semplicemente del surriscaldamento dell'aria dovuto al passaggio degli aerei, appunto, ai motori e ai gas di scarico dei motori, ma invece siano parte di un colossale complotto ordito dai governi, o non saprei bene dirvi da chi, per inquinare, condizionare il clima del pianeta e così via. Allora, sul punto il Messaggero dedica una mezza pagina perché c'è stata, alla fine gli scienziati si sono, come dire, dedicati, hanno 77 geochimici, si sono messi a studiare se davvero questa ipotesi di possibile contaminazione, che fosse un complotto o meno, avesse un qualche fondamento. La risposta è no, devo dire, immagino che molti di voi diranno, beh, lo sapevamo già prima, senza bisogno di conferme, ma visto che poi sui social spesso le bufale hanno grande fortuna e grande durata, allora non è inutile questo contributo degli scienziati e anche questa mezza pagina del Messaggero. Allora, vi dico brevemente, poi trovate appunto a pagina 10 del Quotidiano Romano, una teoria divenuta leggenda, scrive Renato Paone, una leggenda che è diventata mito, ma da oggi le scie chimiche possono essere considerate ufficialmente una bufala. Per gli scienziati, infatti, non esiste alcuna prova evidente della loro esistenza. Questo è il risultato di una lunga indagine pubblicata sulla rivista scientifica Environmental Research Letters, in cui i ricercatori della University of California Irvine affermano che le famigerate scie chimiche rilasciate dagli aerei sarebbero semplici fenomeni chimici e fisici. Insomma, hanno provato a verificare una serie di ipotesi di queste appunto legate alla teoria del complotto sulle scie chimiche e niente, si tratta di vapore acqueo, non ci sono composti chimici o biologici diffusi per qualche oscuro programma segreto dei governi mondiali. Preoccupante però il fatto, come riferisce sempre Renato Paone, che quasi 2 persone su 10 credano alle contrails, cioè al fatto che queste scie chimiche siano invece parte di un complotto ordito dai governi o da una qualche spettre globale per condizionare il pianeta e condizionare le politiche del pianeta. Bene, questo per quanto riguarda le scie chimiche, vi avevo promesso qualche argomento di natura diversa, un po' di politica locale di casa nostra, perché fanno discutere le retribuzioni assegnate dalla neo giunta guidata dal sindaco Virginia Raggi a Roma. Maxi stipendi Campidoglio, i dubbi tra i consiglieri del Movimento 5 Stelle, malumori sui compensi di Raineri e Romeo, entrambi nomi di spicco dello staff di Raggi, il sindaco e i suoi, riferisce il Messaggero, naturalmente quotidiano romano molto attento alle questioni della giunta Raggi, il sindaco e i suoi si difendono, puntano a risparmiare rispetto alle giunte precedenti. Oh, naturalmente per la politica di casa nostra, ma lo avete ascoltato anche nei GR, lo avete ascoltato già ieri, ci sono queste polemiche legate alla sortita di abbigliamento da parte del leader della Lega Matteo Salvini, che si è presentato a Ponte di Legno vestendo una maglietta con le insegne della polizia e se possibile essendo anche più drastico, poi più urticante nelle sue dichiarazioni. Daremo mano libera alle forze dell'ordine per ripulire le città, così ha detto, il senso era, presentandosi con questa maglietta, la polizia, noi siamo dalla parte della polizia, la polizia deve fare deve eliminare appunto quelle zecche, cioè quelle che lui ha definito zecche, i comunisti, spiega Renato Pezzini nella corrispondenza del Messaggero, gli immigrati, i lavavetri e i mendicanti, che se fosse per lui, così riassume Renato Pezzini, dovrebbero essere tutti caricati su un furgone, portati in un bosco e lì abbandonati. Questo alcune delle dichiarazioni. Poi naturalmente sull'uso di questa maglietta c'è stata una reazione pronta e abbastanza piccata del sindacato di polizia, che ha invitato il leader della Lega a non strumentalizzare l'utilizzo appunto delle insegne della polizia di Stato. Ancora abbiamo credo un paio di minuti, vedo che il tema delle scie chimiche vi ha ha stimolato anche qualche messaggio da parte vostra, anche messaggi, qualcuno mi dice che il collega Alessandro Milan avrebbe fatto la carta costa, sì, ci avevo pensato, devo dire, ho corso questo rischio perché è vero che la carta costa, ma è vero che se, come riferisce il Messaggero, 2 persone su 10 credono alle scie chimiche, beh, forse non è così tanto uno spreco di carta, questo per difendere la mia scelta. C'è stata la tradizionale comunicazione sull'andamento dei reati in Italia, trovate la segnalazione su tutti i quotidiani, la prendo dal Messaggero, ma devo dire solo per comodità, anche perché poi il Messaggero sceglie di dare spazio soprattutto al problema delle donne uccise. Un omicidio su tre è di genere, così riferisce Sara Menafra presentando appunto i dati del rapporto. I reati comuni scendono, ma i femminicidi restano più o meno costanti. Il 34% delle uccisioni avvenute in Italia, criminalità organizzata compresa, è contro una donna. I numeri sono contenuti nel rapporto annuale sull'attività del Viminale presentati dal Ministro degli Interni nella consueta conferenza stampa di Ferragosto. I dati poi e anche altri reati collegati appunto spesso al genere, come lo stalking, sono sulla pagina 9 del Messaggero. Bene, e con questa notizia si conclude la nostra rassegna stampa di oggi. Ancora un grazie a Paolo Corleoni che ci ha assistito e a tutti voi l'augurio di una buona giornata.